Sai amico che c'è, c'è chi adesso ti scrivo, che sei un po' distante da me, che forse è giusto così, che ognuno ha la sua vita diversa per quello che fai. E scorre giù una lacrima, e ognuno è diverso dagli altri, ognuno è quello che dà. Ti chiedi se è giusto o sbagliato, lui solo il tuo Dio lo sa. Lo sa, e non so più come stai, e non sai più come sto per i miei sogni. Così, perché si cresce in due.